28. Dalle rive del San Lorenzo spiravano odori d'estate. L'aria aperta disperdeva i miasmi che provenivano dai battelli. Il sole offriva ancora luce e presto la rapida di Lachine avrebbe messo alla prova il convoglio. Joseph scrutava il profilo delle sponde, cercando appigli per la memoria, visioni vecchie di 15 anni, quando aveva solcato quelle acque per la prima volta. Osservò il profilo d'ombra disegnato dallo scafo e notò che anche Philip faceva lo stesso. Il volto del cacciatore solitario fluttuava nella corrente. La guerra contro la Francia era durata 7 anni, ma la loro giovane età aveva consentito di prendere parte soltanto alle ultime imprese di Sir William. La cattura di Fornagara, dove avevano avuto il battesimo del fuoco, e la presa di Montreal, l'ultimo baluardo francese in America. I francesi sapevano che ormai la guerra era perduta e la città si era arresa, senza opporre resistenza. Eppure il pericolo più grande lui e Philip l'avevano corso allora, mentre percorrevano quel fiume. Si erano salvati insieme ed era stato l'inizio della loro amicizia. Joseph si accorse di stringere il remo più del necessario. Una presa rigida, contratta, che la spalla cominciava ad accusare. Si sforzò di sciogliere i movimenti e continuare a remare. Immaginò che anche Philip stesse ripercorrendo il sentiero dei ricordi. Avevano 17 anni, ma quella volta non si era trattato di lanciare insulti e sparare da dietro un albero in attesa che i guerrieri risolvessero la questione. Quella volta l'odore della paura e della morte era entrato in profondità attraverso le narici, scendendo nella pancia e risalendo fino in gola. Erano in avanscoperta, insieme a due guerrieri esperti, gente che aveva combattuto sotto l'ala di Hendrik, uccisori d'uomini, rispettati da un capo all'altro della lunga casa. Il generale Amherst, che guidava la spedizione, temeva che le tribù alleate dei francesi progettassero un attacco sulla rapida. Sir William si era offerto di mandare una canoa in perlustrazione. Era un incarico importante. Joseph ricordava di aver provato orgoglio. Dovevano sbarcare e pattugliare la riva, controllare se qualcuno avesse lasciato segni o tracce sul sentiero che costeggiava la sponda destra del fiume. Quando la canoa si era avvicinata alle rocce, il guerriero Aprua aveva fatto cenno di fermarsi. Silenzio, soltanto lo sciabordare dello scafo e il rombo della rapida più a valle. Joseph aveva avuto solo il tempo di sfiorare il fucile prima che tutto accadesse. All'improvviso, demoni feroci erano sorti dal fiume, nascosti da ammassi di alghe. I guerrieri Aprua e Apoppa erano stati trascinati giù, in un abbraccio che non lasciava scampo. Joseph aveva visto specchiata la propria paura nel volto dell'amico. Poi Philip si era scagliato fuori dalla canoa con un grido di guerra. Lo aveva visto avanzare nell'acqua fino al ventre e sfidare gli Abenaki. Quelli avevano ghignato, non era che un ragazzo, trovavano la cosa ridicola, divertente. Non di meno, si apprestavano a ucciderlo. Joseph aveva contato i fucili dei guerrieri rimasti sul fondo della canoa, 4 con il suo. Poi aveva fatto lo stesso con i nemici. Non doveva sbagliare. Aveva abbattuto il primo con un colpo in pieno petto, senza lasciargli il tempo di avvicinarsi a Philip. Il secondo era riuscito solo a ferirlo al fianco, ma ci aveva pensato Philip a finirlo col tomahawk. Il terzo e il quarto si erano scagliati contro il giovane Mohawk, accecati di rabbia. Joseph ne aveva colpito soltanto uno, alla testa. La lotta tra Philip e l'ultimo avversario era durata pochi respiri, che a Joseph erano sembrati eterni. Poi l'amico era emerso dall'acqua brandendo il coltello. Aveva una vistosa ferita al costato. Un passo più in là l'avversario cercava di rimettersi in piedi mentre si tamponava un taglio al braccio, profondo fino all'osso. Mentre si ritirava verso il bosco, gli aveva maledetti nella sua lingua e in francese, incredulo di essere stato battuto da due ragazzi. Ancora furente di paura, Philip si era gettato all'inseguimento. A Joseph non restavano più colpi in canna. Ricaricare avrebbe richiesto troppo tempo. Come in sogno, gli occhi della mente avevano osservato il corpo saltare nell'acqua e correre a ginocchia alte verso la riva. Li aveva raggiunti tra gli alberi. Aveva dovuto strappare via Philip dall'avversario, che ancora si dibatteva sotto i colpi di coltello. Nonostante la ferita, Philip era un fascio di nervi e muscoli pronti a scattare o a sciogliersi non appena le forze fossero mancate. Senza pensare, Joseph aveva guardato il volto del guerriero moribondo e alzato il calcio del fucile. Il rumore delle ossa del cranio che si spaccavano gli era entrato nelle orecchie per non uscirne più. Quando erano tornati alla canoa, la piccola insenatura era rossa di sangue e la corrente cullava i corpi inerti dei caduti. I due superstiti si erano guardati senza parole. La ferita di Filippo era profonda. Dovevano tornare in fretta al convoglio. Un solo paio di braccia per pagaiare, trasportare i corpi dei compagni, sperare che il grosso dei nemici fosse lontano. In quella situazione, sparare non era stato saggio. Ma dai giovani non ci si aspetta saggezza. Joseph aveva remato con la forza della disperazione, ansioso di vedere spuntare il profilo di scafi amici. Lo scontro era avvenuto nell'acqua, ma il sangue impregnava tutto, anche il loro spirito. La corrente dei ricordi lasciò spazio alle immagini del presente. Un altro convoglio, un'altra guerra. Joseph guardò ancora Philippe che remava. Pensò che doveva esserci un senso nel ripetersi di quel viaggio. Era come tornare dove tutto aveva avuto inizio.